La zanzara. Con Luca Telese. Buonasera, eccoci qua in diretta. La zanzara ronza e c'è molto da ronzare sicuramente. Vi scaldate subito con i numeri di telefono 824 0024 per intervenire, 349 238 6666 per mandare dei messaggi. Allora, per entrare nel vivo del dibattito, sentiamo subito i titoli del TG2. USA, il grande duello, domani l'America decide, i sondaggi della vigilia danno ancora in testa Obama, ma McCain non si arrende, il vento è cambiato, dice, e lancia l'offensiva finale, crede ancora al miracolo, le ultime in diretta dai nostri inviati. Giallo di Garlasco, chiesto il processo per Alberto Stasi, è stato lui ad uccidere Chiara Poggi, sostiene la procura, ce l'aspettavamo, ma è innocente, replica la difesa del fidanzato della vittima. Bari, un uomo di 66 anni muore 6 mesi dopo un trapianto di fegato. L'organo era infetto da virus dell'epatite B, denuncia la figlia del paziente. Aperta un'inchiesta. Vertenza all'Italia. Il fronte del No si riunisce a Fiumicino in un'assemblea a porte chiuse. Tensione tra 1000 lavoratori. Gli assistenti di volo in polemica abbandonano la riunione. Si profila l'ipotesi dello sciopero. Torno in Italia, ma sto lontano dal calcio. Revocata la custodia cautelare in carcere per Luciano Gaucci dopo il fallimento della sua società, l'ex patron del Perugia era fuggito a Santo Domingo. Allora, questo era Studio Aperto, ma non era Studio Aperto, era Studio Aperto e adesso mandiamo il TG2. Omicidio di Garlasco, chiesto il rinvio a giudizio per Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara, unico indagato. La difesa, non chiederemo il rito abbreviato. In esclusiva al TG2 le foto della polizia scattate pochi minuti dopo l'agguato di Secondigliano. Gli investigatori dicono potrebbe essere stata una guerra tra bande giovanili. Elezioni USA, domani mattina inizieranno a votare negli stati della costa orientale. Tutti i sondaggi danno avanti Obama, ma McCain dice la partita è aperta. Muore a Bari un uomo che aveva subito il trapianto del fegato. I familiari accusano l'organo era infettato dal virus dell'epatite B. Curiosa corsa di un cinghiale per le strade di Trieste. Impaurito e affamato è stato salvato dai vigili del fuoco. A Benevento e caccia una pantera. Allora, eccoci qui alla zanzara. Vedete che dominano i titoli dei giornali, fatti strani, i rinoceronti che corrono nel centro delle città, orribili vicende di malcostume sanitario e ovviamente questa incredibile vigilia, l'attesa del grande evento, le elezioni americane. E allora, in attesa veramente che le elezioni americane ci diano un responso, parleremo di questo ovviamente, e poi di cose leggerissime, anzi quasi pop, che però ci portano dentro argomenti molto seri. Il primo evento pop di questa settimana, in un tempo in cui lo spettacolo si è mangiato la politica e la politica si è mangiata lo spettacolo, è il malore in diretta di Giulio Andreotti. Sentite un po' che cosa è successo dalla Perego. Ecco, lei con i bambini, quale futuro li aspetta e quale futuro lei si augura per i bambini di oggi? Presidente, quale futuro lei si augura per i nostri bambini? Presidente? Presidente? E il presidente non c'era, andava in onda un siparietto sdrammatizzante, che poteva essere terribilmente invece drammatizzante, data la circostanza, e poi improvvisamente il rientro, il lieto fine per le famiglie. Bentornati a questa domenica. C'è stata un'interruzione un po' brusca dell'intervista con il senatore Giulio Andreotti, chiaramente per via della pubblicità, perché chiacchierando ci eravamo dimenticati che poi ci sarebbe stata la pubblicità, quindi non ha avuto modo di salutare, però insomma voleva salutare tutto il pubblico. Eccolo il senatore, prego, venga. Venga senatore. E che con la pubblicità si fa così. Ah, benissimo. No. Grazie, no, volevamo solo che lei avesse modo di prendersi gli applausi di tutto il nostro pubblico, che prima sono stati interrotti dalla pubblicità, e volevamo ringraziarlo ancora una volta di essere stato qui con noi a questa domenica. Grazie, grazie. Grazie, e sono contento perché mi avete messo non tra due ladroni, ma tra due bellissime ragazze. Prego, senatore. miracolo catodico, praticamente Andreotti ha ammesso lui stesso di essere stato rianimato da due veline, ma per un longevo anziano frequentatore dei palazzi di Montecitorio, Andreotti racconta che quando giocava a pallone a Piazza Lucina, Montecitorio era chiamato il palazzo dei puzzoni perché c'era il riscaldamento a legna. Ecco, dicevo, per un decano della politica di due repubbliche che va in scena nell'intrattenimento domenicale, abbiamo una signora degli intrattenimenti domenicali, serali e prefestivi che vuole diventare ministro. È lei, è Valeria Marini, e non possiamo farvela sentire perché è una meravigliosa intervista a Isabelli Fioretti alla Stampa, quindi cartacea, però abbiamo un commento, un primo commento di Padellaro. La Marini, se si apre un concorso per diventare ministri e in questo, a questo concorso hanno un punteggio, sto parlando del Popolo della Libertà, hanno un punteggio maggiore le donne avvenenti, magari con carriere di attrice alle spalle o magari anche di simpatie con il Presidente del Consiglio, il che non guasta, perché lei non deve partecipare. Io non so quanto sia simpatica Berlusconi. Secondo me questo di Padellaro era un sostegno un po' interessato e malevolo, cioè non malevolo perché Padellaro sia malevolo, ma perché malevolo nei confronti del centrodestra, come per dire è un deposito di veline. Va bene, ognuno si fa la sua opinione, ma intanto in un altro salotto esplode un'altra polemica politica. Dove? Da Simona Ventura. E perché? Perché Simona Ventura ha un intellettuale come Alda De Osagno, chiede chi butti giù dalla torre, Veltroni o Berlusconi. E guardate che cosa succede. Allora, chi scarti? Vabbè, sono le foto, mi sembrano le foto del TG4 queste. Guardate Veltroni e Silvio Berlusconi, il migliore che le avete. Scarto, qui non ho tempo di riflettere, Walter. Perché? Tu sei insomma... Perché se io avessi 10 euro, li affiderei a Berlusconi, non a Walter Veltroni, come dire. Oh. Risposta di Alda. Naturalmente i gol e cose perché hanno fatto gol, non sì, perché Palermo. Ho detto la cosa che ti è piaciuta, no, perché vedevo gli altri che facevano così. No, 3-0 del Palermo, solo per questo siamo contenti. Io nei tempi del Veltrusconi non affiderei una lira né all'uno né all'altro probabilmente, però insomma il dibattito si è aperto, un parlamentare del PD, Morri, rappresentante in commissione di vigilanza, ha protestato ferocemente dicendo che si tratta di un episodio di orientamento, lo sentiamo fra poco e lui ci spiegherà, ma passiamo già agli echi dell'America che iniziano a riverberarsi nel dibattito italiano. Ha iniziato la Gelmini dicendo che la riforma di Obama gli sembra quasi la sua, ha proseguito Bondi dicendo che vede grandi similitudini fra Obama e Berlusconi, e poi a un certo punto anche Berlusconi, pronunciandosi su questo ballottaggio, ha scelto una curiosa equidistanza, essendo lui, diciamo così, un leader di centrodestra. Sentite. Noi dovremo collaborare al meglio con il prossimo presidente americano, quindi sarebbe assolutamente assurdo che noi ci esponessimo con una preferenza nei confronti dell'uno e dell'altro. Mi sembra che sia così logico da non doversi nemmeno sottolineare. E guardate Frattini che cosa ha detto. Senta, sa quanti anni ha McCain? Sì, ha più o meno 72 anni. E sa che lui sarebbe il più vecchio candidato mai eletto alla presidenza degli Stati Uniti? Ma certamente lo so, ma lo sanno benissimo anche gli americani che andranno a votare, quindi evidentemente. Ma la mia domanda, c'è un piccolo trucco. Quanti anni ha Berlusconi? Esattamente qualche mese in meno del senatore McCain. Bravo. Praticamente un ragazzino, però Berlusconi, a cui piace premurarsi, già profetizza per se stesso una longevità assoluta e fa grandi lai, alza grandi lodi al progetto di Don Verzè che punta all'immortalità. Avremo poi un testimone di questa vicenda che forse chi è nelle segrete cose già sa chi è, ma intanto sentite cosa dice Berlusconi sulla sua immortalità. Avviso ai colleghi, Don Verzè sta realizzando a Verona una cosa straordinaria per la medicina predittiva e ha come meta quella di trasportare l'età media, che fino all'Ottocento era di 23 anni, tante morti di bambini, poi all'inizio del Novecento era di 40 anni e adesso è di 80 anni, meglio 82 per le signore, 78 per noi, vuole trasportarla a 120 anni. Se c'è un'opera che vale la pena di finanziare. E con questa medicina predittiva non si aggiungono soltanto anni alla vita, ma si aggiunge qualità agli anni. Eravamo dalle parti dei temi della vita eterna, del rapporto fra biologia e politica, e c'è anche la comicità, ovviamente. La grande, grandissima Luciana Di Tizzetto ha fatto una proposta che forse merita di essere presa in considerazione. Allora, comunque, per risolvere tutte le questioni, io una proposta ce l'avrei. Tu? Sì. Figurati. Diventiamo una monarchia. Come basta, una... basta costare pubblica delle balle, fine. Una monarchia? Una monarchia. Ma non costituzionale, assoluta, proprio. Ma che adesso, illuminato o no? No, tiranni. No, anche tiranni. A buio fa lo stesso. E ma chi fa il re, scusa? Indovina. Re, monarca, non so. Vuoi che ti facciamo sultano, Berluc? Ah, va bene, scusa, lo stesso, no, pensavo che... Mettiamo le babbucce a punta, sai quelle lì? Sì, sì. Pantaloni a sbuffo, camicione bianco. Devo dire che non è che lo slancia molto, sembra un po' un coniglio di un prestigiatore. Anche io lo vedrei bene come ruasso lei. Sì, va bene, la monarchia, il re sole, sì. Re sole? Sì. No, no, perché, allora, la cipria... ce l'ha già. Sì, ma non è vero, sono di cerì. Parrucca pure. Ma sono di cerì. Basta mettere quella d'epoca. No, va bene. Scarpe col tacco ce l'ha da una vita, anche Sarkozy le invidia. Gli mettiamo i gambaletti bianchi, gli facciamo il neo qua e siamo a posto. Vabbè, la monarchia tu. Ma sai quanto risparmiamo? Sì, perché? Perché via il Parlamento, solo duchi e marchesi li sceglie lui. La marchesa Carfagna, il conte Onfalna Tulip. E tu? Il marchese Schifè. No, io niente, io il buffone di corte. Certo. E Brunetta Paggio. Che lo vedo bene. Paggio di corte. Allora, mentre la Tizzetto faceva questo reimpasto di gabinetto regale, noi abbiamo al telefono Fabrizio Morri. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Abbiamo appena mandato lo spezzone incriminato, nel senso che sui giornali di oggi si legge di una sua protesta, insomma, per questo gioco della torre fatto da Simona Ventura, che diceva: volete buttare giù Berlusconi o Veltroni? Lei ha detto no, è una cosa preparata. Da chi ha chiesto questo? È così? Ma in realtà io sono stato colpito in modo particolare da due cose. Una, che amerei che le trasmissioni, peraltro popolari e condotte bene e per anni regolate anche da gusto e ironia, perché io non ce l'ho né con l'avventura né sono tra quei politici che pensano di spiegare, certo, a chi lo fa di mestiere come devono essere i programmi. Poi è divertente ricordare che l'avventura già è in corso negli strali di Gasparri in una memorabile puntata. Sì, sì, sì, appunto, quindi figuriamoci, non c'è nulla di... Sono stato colpito dal fatto che una trasmissione popolare come quella, diciamo, di intrattenimento sportivo, culturale sportivo, diciamo così, si affrontasse con un ospite come la De Usanio questo argomento, chiamiamolo politico. Sia pure. Ma cos'era contorto... che non andava bene? La risposta della De Usanio, che fosse la De Usanio interrogata? Se la De Usanio no. avesse detto butto giù dalla torre Berlusconi, a lei no. sarebbe andata bene? Assolutamente no. A me ha ricordato quella trasmissione, mi ha colpito soprattutto un punto, che si fa vedere una fotografia bella, sorridente, ottimistica e che guarda al futuro di Berlusconi. È una foto del povero Veltroni, corrucciato, incattivito, impresentabile, e milioni di persone vedono un leader rivolto all'ottimismo e sembra un rancoroso e triste leader dell'opposizione, a cui fa seguito, viste queste fotografie, queste immagini, fa seguito la domanda: chi butti giù dalla torre? E la De Usanio butti giù chi gli pare, non è... Ma fra l'altro l'ha notato... No, noi non abbiamo... me ne frega niente, sì, ma sì, sì, mi certo. ha messo in testa, Telese, la seguente cosa. Che paese sta diventando il nostro in cui la maggioranza dei conduttori, dei giornalisti, fa azione quotidiana di conformismo piatto verso il potere, e mi permetta di dire, e di potere in Italia Berlusconi ne ha assai più di Veltroni, diciamo così, conformissimo, e molto cattivi contro il capo dell'opposizione, o diciamo il principale esponente politico, sì, l'ho detto dell'opposizione. Anche... mi ha incuriosito. Lo ha detto anche Veltroni in una conferenza stampa, ma noi gli abbiamo mandato proprio la Tizzetto e secondo me, diciamo, compensa qualunque cosa. ma Tizzetto così la consola. Sorriso. fa molto sorridere. La domanda mia è questa: mi piacerebbe un panorama mediatico in cui ci fosse un po' più di coraggio nel fischiare i falli del potere. Poi, per carità, se si vuole anche criticare, dileggiare anche gli esponenti dell'opposizione, si accomodino pure, deve essere tutto fatto con libertà e con ironia, ma una qualche ragione per cui le trasmissioni di satira, dico, non funzionano più, le chiedo una cosa, ma se lo dice anche un ascoltatore che manda un sms, Fabrizio a Padova, ma se quella battuta su Berlusconi che diventa monarca con le babbucce eccetera, la Littizzetto l'avesse fatta su Veltroni, lei si sarebbe preoccupato e invece così non la preoccupa? No, non mi sarei preoccupato neanche se l'avesse fatta su Veltroni. Va bene. No, non scherziamo. Quindi lei non è come dice Paolo Mieli, non è cerchio bottista, no, o doppio pesista, ecco. No, penso di no, anche se rivendico da spettatore, non dico da politico, rivendico di poter dire se una cosa mi piace o meno in televisione. Cioè, questo. Grazie. Devono fare una ragione anche i conduttori. C'è una chiamata su questo da conduttore, le chiedo di ascoltare un secondo questo intervento di un ascoltatore, poi le risponderei, poi la salutiamo. Maurizio da Milano. Buonasera, signor Ricorso. Che cosa ci dice sul caso Deusanio? È un piccolo frammento di condizionamento mediatico, come dice Morri, oppure le sembra un gioco ameno da domenica televisiva? Ma io non l'ho visto, però adesso l'ho sentito e mi rendo conto che secondo me la signora Deusanio è solamente una donna coraggiosa, perché ha detto quello che milioni di donne e uomini italiani pensano. Io personalmente, che sono un operaio, metterei sicuramente in restarmi in mano a Berlusconi piuttosto che metterli in mano a Veltroni, perché ognuno esprime le sue preferenze. Ci sono anche operai che li metterebbero in mano a Veltroni. Morri, ha sentito? Sì, e cosa devo dire? Lei a chi metterebbe in mano i suoi risparmi? I miei risparmi? Sì. No, beh, di più a Veltroni, ma spero che Veltroni non amministri mai i risparmi degli italiani, come non lo deve fare Berlusconi. Che cosa c'entra? Per amministrare i miei risparmi dovrebbero esserci banche normali, cosa da cui siamo piuttosto lontani in questo paese. E questo siamo d'accordo con lei. Esperti finanziari veri, banche che sono chiamare il cittadino investitore, magari l'avvisano e non gli vendono della paccottiglia. Cioè, sarebbero questo. Non vedo perché dei miei risparmi se ne debba occupare né Berlusconi né anche Veltroni. Molto ragionevole. La salutiamo. Buonasera. Pietro da Rimini, che ci pone un interrogativo su questo tema, che è un po' il tormentone che abbiamo lanciato già da venerdì, i grandi ritorni, i vecchi che sono sempre sulla scena. Andreotti, l'avete sentito? Che cosa ci dici, Pietro? Buonasera, intanto grazie per lo spazio che mi avete dato. Niente, la mia voleva essere un'osservazione anche già dalla scorsa settimana. Non sapevo che era questo qui il tema. Il discorso è appunto questo spazio che viene dato sempre ai vari Gelli, Andreotti, Cirino, Pomicino. Abbiamo Del Turco che sta facendo il passaggio delle sue discolpe nei vari programmi televisivi. La mia domanda adesso torna anche Gaucci. Cosa vorrà fare Gaucci? Il ministro? Non lo so. E io mi chiedo, voi che gli date tanto spazio, ditemi di che cose ci arricchiscono. Sì, quando io sento Cossiga che dice tutte quelle cose, quando io sento Del Turco che si discolpa, non so, ci arricchiscono di qualcosa? Potreste dar spazio a qualcun altro che magari, non so, magari qualcuno emergente, certo, che ancora non lo conosciamo. Perché noi diamo spazio, diamo spazio a tutti, come sa chi sente la Zanzara, dal più insignificante al più utile. Prego gli ascoltatori di pazientare ancora qualche secondo, quelli che hanno già chiamato, perché dobbiamo sentirci, dobbiamo aggiornarci, andiamo a vedere che combina il TG3. Battaglia finale fra Obama e McCain, il democratico sempre in testa, in vantaggio i democratici anche a Camera e Senato. Continua la protesta nelle università, al Politecnico di Milano interrotta la cerimonia dell'anno accademico. Veltroni su scuole e università dialogo, sì, ma solo se il governo cancella i tagli. Pressing della Lega sul governo, si ascolti l'opposizione. All'Italia centinaia di lavoratori in assemblea a porte chiuse, a Fiumicino si incrina al fronte della protesta, uno dei sindacati lascia la riunione. L'Unione Europea e la crisi ha un impatto forte sull'economia reale dell'Italia e niente crescita fino al 2010. Sono stati operati e presto lasceranno l'ospedale 2 dei 5 ragazzini gambizzati dalla camorra e il TG3 fra i giovani di Secondigliano. Allora, rieccoci qui e dobbiamo sentire anche Sky. USA 2008, Obama sempre avanti, McCain è convinto, il vento sta cambiando. L'Unione Europea prevede per l'Italia crescita zero nel 2008 e nel 2009. All'Italia, Fiumicino, l'assemblea del fronte del no, Fantozzi vaglia il piano CAI. Irruzione degli studenti al Politecnico di Milano all'inaugurazione dell'anno accademico. Napoli caccia al comando che ha sparato ai ragazzini, napolitano, violenza efferata. Omicidio-suicidio a Bologna, uccide l'ex fidanzata e poi si toglie la vita. Viareggio, 3 neonati morti in un mese, medico indagato per omicidio colposo. Il giallo di Garlasco, chiesto il rinvio a giudizio per Alberto Stasi. Congo, primi convogli umanitari nelle zone di guerra, coprifuoco a Goma. Inter Milan, fuori campo il derby delle polemiche, il Bologna esonera Arrigoni, arriva Mihajlovic. Allora, sta infuriando questa assemblea particolarmente drammatica, indiscrezioni, voci di sciopero ad oltranza. Prima di dare la parola a Scapagnini per raccontarvi che cosa sta accadendo all'Italia, vi diamo uno spezzone che ci ha colpito molto, e cioè mentre stava facendo l'intervista Mauro Veneziani, un rappresentante di Will Trasporti, ha acceso su di sé le ire degli altri scioperanti. Ma io spero che nei prossimi giorni le sigle autonome possano ravvedersi e spero che appunto possano firmare e rientrare nella partita. Ecco, questo dunque è la situazione che si respira qui, lo vedete proprio, però ricordiamo che la CAI ha comunque presentata alla CAI. Ilaria, ecco. Ilaria, sentiamo e vediamo adesso anche delle scene un po' concitate, ci puoi raccontare ecco, cosa vedete? Sta succedendo? Dunque, ecco, questo è il momento di tensione. Eccoci che vedete qui. Vedete, non abbiamo neanche bisogno delle immagini, si capisce che era un momento drammatico, perché è drammatica la scelta fra chi sciopera e chi lavora, fra chi firma il contratto e chi non lo fa. Allora, Scapagnini, buonasera. Buonasera a come voi. Sta? Bene, grazie, per grazie di Dio. E noi vogliamo assolutamente sentire la sua voce, perché sì. C'è questo cortocircuito di voci, eventi, Berlusconi scrive un pezzo in cui fa considerazioni dopo la visita al Covadis del San Raffaele, in cui sì, si affida che si a questa speranza di longevità infinita, sì. 120 anni si è dunque, proposto come obiettivo. Dunque io lei disse, fece una famosa intervista in bravo, cui disse se la ricorda quella con Cazzullo, tecnicamente immortale. Sì, noi sì. Continuiamo, c'è chi è inquietato da questo suo pronostico, c'è chi è lieto, però insomma lei sapeva che... Sì, no, là fu veramente la capacità che avete voi giornalisti delle volte di riuscire veramente a centrare... Adesso è colpa di Cazzullo. Cioè, no, Cazzullo, no, no colpa, merito. Cioè, lui con quel titolo, naturalmente, che era un po' ipertrofico, ovviamente, trasse il succo di quell'intervista. Nella realtà... Io questo lo vorrei sottolineare, mi fa piacere molto che il Presidente abbia diciamo anche proprio di suo pugno scritto quelle che sono le cose che ormai da 10-15 anni portiamo avanti con grande forza, e cioè che realmente noi nasciamo con una sorta di patrimonio che sarà intorno a 120, 130, 140, probabilmente intorno ai 150 anni, e che mano a mano ci andiamo consumando nel corso della vita. Ma lei vuole contribuire solo all'immortalità di Berlusconi, no, o anche a quella degli altri? A quella di tutti. Noi abbiamo scritto parecchi libri su questo, come sa, insomma, io sono uno dei padri di questa qui in Europa, della, si chiama Anti-Aging Academy of Medicine. Ci dia qualche consiglio subito, ecco, qualcosa per guardi, aumentare. Il primo consiglio è quello di fare una valutazione. Ora esiste un test semplicissimo, prima era molto complesso, si dovevano misurare i livelli ormonali, bisognava vedere qual era il pattern delle difese immunitarie, fare tutta una, serie di test di vivacità mentale, eccetera. Oggi si può fare invece un test molto semplice, innanzitutto, che è quello, un test si chiama della genomica funzionale, cioè attraverso un semplice tampone salivare e applicando la lettura di una cinquantina di catene del DNA, noi siamo in condizione di sapere quali saranno le nostre, non, se no nessuno lo farebbe, ma le assicuro che non è così, cioè non è che noi diciamo, allora noi sappiamo che fra 10 anni avremo una grave malattia di tipo neurodegenerativo oppure avremo un infarto, no, non è così, si vedono quali sono i punti di debolezza dell'individuo. Cioè io ho la tendenza, per esempio, a poter avere malattie neurodegenerative. Chiarissimo. Un altro ha la tendenza... Un altro è debole di cuore. Una volta inquadrato questo... Il famoso destino segnato. Ecco, però no, non segnato. E questa è una cosa bella, che è possibile intervenire per fare sì che questo si verifichi il più lontano possibile o non si verifichi affatto. E per fare questo... Oggi disponiamo di una serie di mezzi di medicina preventiva che ci consentono quindi proprio singolarmente di poter fare sì che, non so se 120, 110 o 130, ma la cosa importante è la qualità della vita e quindi in che condizioni poi si raggiungono questi 110, 120 anni. Noi possiamo oggi, con questa medicina preventiva che noi abbiamo nelle mani, utilizzando degli strumenti molto semplici, cercare di tenere quanto più lontano possibile queste debolezze che noi abbiamo non diventino mai malattia. Chiarissimo. Questo test, che costa niente praticamente, pochissimo, potrebbe veramente oltretutto influenzare moltissimo, capisce bene, anche quello che è il destino economico di un paese, perché se lei pensa che un anno di permanenza in ospedale di un soggetto, cioè nel nostro sistema sanitario, costa un anno solo di una persona in un ospedale costa 7 volte di più che non un individuo che a 60 anni è andato regolarmente in pensione, ha percepito la pensione fino a 100 anni e poi è morto, quindi avendo avuto 40 anni di pensione, avendo avuto soltanto malattie, diciamo, di scarsa entità. Quindi, però sindaco, quando lei ha parlato di finanze, sa che stanno arrivando decine di messaggi di testo che dicono non si preoccupava delle finanze di Catania, della sua città. Chi? E che c'entra? Gli ascoltatori. No, me ne occupavo abbondantissimamente e come mi farebbe tanto piacere, se fosse possibile, essere a vostra disposizione per spiegarvi veramente quello che... Allora, guardi, le dico una battuta feroce che ho ricevuto ora, che però lei al senso di ironia le divertirà, dice se applica la cura Catania a Berlusconi dubito che potrà durare a lungo. Beh, si vede che non è stato nella nostra città, perché la nostra città è stata trasformata in maniera eccezionale sotto il profilo strutturale. Noi praticamente, quando l'abbiamo presa in mano nel 2000, avevamo soltanto all'incirca 90 chilometri di fogne, ne abbiamo 552, 25% di sistema fognante, cioè ogni 4 case una sola collegata era collegata. E però ci sono i quartieri al buio. No, però i quartieri sono al buio e glielo dico, vede, noi ci eravamo ripromessi di parlare di un altro argomento, però ritorniamo sempre su questo stesso. Allora lo dico con grandissima chiarezza, guardi, negli ultimi 2 anni noi abbiamo avuto difficoltà enormi perché abbiamo avuto una ostilità ben precisa e manifesta, che io posso naturalmente dimostrare. Oltretutto, io non è che non mi assumo le mie responsabilità, ma gli altri se le devono assumere. No, ma neanche io le ho fatto una trappola, però come lei ha detto quella cosa sulle finanze, sono arrivati 10 messaggi di testo, mio dovere chiederle. Catania si sta avviando verso un equilibrio come tante altre città, perché le difficoltà erano identiche, soltanto che nel nostro caso abbiamo avuto, come si suol dire, una sorta di antagonismo molto forte. E poi vorrei farle presente una cosa molto semplice, che il sindaco è quello che dà la indicazione politica sulle varie metodologie che noi facciamo per poter portare avanti la città, e ci sono due tipi di finanze. Una è quella, la cosiddetta finanza tradizionale, quella che serve a pagare praticamente gli stipendi e a pagare quelli che sono i fornitori. E l'altra invece è la finanza di sviluppo, cioè quella che noi facciamo non con i soldi che riceviamo dal governo, cioè, pochi peraltro. Non ci infiliamo in un lunghissimo ragionamento metodologico. Solo una domanda che è molto interessante, sempre ai nostri ascoltatori che dicono: sì, vabbè, ma se poi si allunga la vita, le pensioni chi le paga? Sì, e questo è un'altra bancarotta. Questo è un altro, no, invece questo è molto, questo è uno dei problemi interessanti. Vede, la medicina moderna ci ha portato proprio a questo, ad allungare la durata della vita, nello stesso tempo ad allungare anche la qualità di questa durata della vita. Quindi è essenziale che questo debba viaggiare insieme a una collaborazione con le nuove generazioni, se no noi produrremo il fenomeno del cozzo delle generazioni. Le due grandi, diciamo, crisi mondiali che si possono verificare al di là di quella grande economica che stiamo vivendo, quella demografica in questi anni, e quella previdenziale, quella dello scontro tra generazioni e dello scontro con popolazioni differenti, per esempio in Africa, dove soffrono tanto. Non entriamo sull'Africa. Abbiamo alcune telefonate, vi ricordo i numeri: 824 0024 349 238 6666. Mariano dalla Spezia, che ci dice? Sì, buonasera, mi riferisco, io ascolto molto la vostra radio. E bene, spesso, non la spenga spesso, mai. No, non la spengo anche mai. La notte. Beh, quello è esagerato comunque. Mi viene spesso però voglia di chiedere una cosa e anche di chiederla a voi, cioè se fosse possibile quasi lanciare una campagna contro la faziosità. Cioè io sinceramente non riesco più a capire per quale motivo di ogni problema o di ogni situazione si debba prima partire dalla propria posizione politica, impostare il problema e poi dopo cercare la soluzione. Non sarebbe preferibile cercare di capire il problema così com'è e poi magari trovare una soluzione in funzione della propria idea politica, che ovviamente non può essere uguale per tutti? Mi riferisco, per esempio, per dirle, all'intervento dell'intervista che lei ha fatto a un signore circa un'oretta fa sul fatto che si era indignato per vedere due fotografie alla RAI, una di Berlusconi felice Morri. E una di Veltroni triste. Ora, questo signore si è indignato per aver visto due fotografie. C'è stata tutta una campagna elettorale impostata su trasmissioni televisive dei telegiornali dove hanno sempre, e sono visibili a tutti quanti, fatto vedere prima un'immagine di Veltroni sorridente con popolazione che lo applaudiva e poi subito dopo immagini di Berlusconi sempre arrabbiato e sempre a discutere. Tant'è vero che io mi sono chiesto come mai Berlusconi, un uomo di immagine, non fosse intervenuto per tutto sommato per cercare di mitigare un po' questa sì situazione. Ma lei fa questo invito che noi raccogliamo alla mancanza di faziosità, però poi cade nello stesso tranello. Ci saranno immagini corrucciate di Berlusconi, corrucciate di Veltroni, dovranno abituarsi entrambi a vedere questo tipo di foto. Dicevo, siccome appunto vorrei non farla, non credo che Berlusconi sia in minoranza nei media, ecco, cioè voglio dire, si vedono per mesi cose di questo genere, nessuno si sente male o si pone dei problemi. Basta che ci sia una volta un caso che non torna a certe parti e subito si interviene. Cioè, io penso infatti che l'abbiamo segnalato diversi, proprio insomma. Perché ha ragione, sono i piccoli grandi temi di un paese in cui il dibattito sul conflitto di interessi ha esasperato ogni questione. Nicola da Ravenna, che sta aspettando eroicamente da molto tempo, è ancora lì? Sì, pronto? Sì, sono qui. Allora, là. Cosa ha fatto per 40 minuti col telefono in mano? Guido. Bene. Allora. Sono quindi vi ascolto. Ottimo. Che ci voleva dire? Volevo intervenire dalla scorsa settimana. Giovedì avevo sentito una ascoltatrice di Livorno che parlava del proprio figlio, dei propri figli e dei problemi avuti per le occupazioni, gli scioperi. Volevo portare la testimonianza di quello che è successo a Ravenna nel liceo classico. Ho un figlio che fa il terzo anno e dopo il primo giorno di occupazione hanno incontrato all'interno della scuola, cioè nel primo giorno di occupazione, un soggetto, poi si ha specificato essere del PD, che è andato a spiegare il decreto quello che loro ritenevano essere il decreto, e gli ha spiegato come il decreto veniva attuato e quindi i danni che poteva portare. Mio figlio, che è abituato alla critica in genere, ha detto: vabbè, ascolta, stiamo sentendo te, ma vorremmo sentire anche l'altra parte, giusto per e va bene, se, lo se facciano, invitino anche l'altra parte. Non è stato possibile, nel senso che nella scuola hanno fatto entrare solo ed esclusivamente questo qui del PD. A fine descrizione ha detto: sappiate che voi siete come dei partigiani. Detto bene, è stata la. Ma chi era? Chi era? Il nome? Nome non lo ha detto lui, ovviamente, se ne è guardato bene dal dire il proprio nome. Ha detto semplicemente che spiegava appunto quello che era il decreto. Comunque, senta, io sono stato studente in tempi non remoti, capisco la sua preoccupazione, però le devo dire, la gente si fa le sue opinioni. Oggi sentiranno quello del PD, domani accendono la televisione, sentiranno la Gelmini o Berlusconi. Alla fine più campane si sentono, anche quelle che danno inviti resistenziali, meglio è. Insomma, non credo che sia un dramma, ecco, cioè penso che suo figlio, se già le ha riferito la cosa così, abbia tutta la maturità per farsi un'idea critica. Allora, Marco da Milano, sì, stuzzicato buonasera. Dai temi della longevità? Sì, esatto. Io, guardi, sono rimasto un po' spiazzato da queste dichiarazioni di Berlusconi sulla medicina predittiva. Nel senso che, secondo me, nobilissimo intento portare la vita a 120 anni. Tra l'altro dice aggiungendo qualità alla vita. Ma io credo che prima di aggiungere qualità alla vita dei nostri anziani, forse in Italia avremo altre priorità. Ad esempio, aggiungere qualità alla vita dei nostri giovani. Alla vita, credo, io sono lui... giovane. E mi spiego meglio, cioè di fronte a un periodo in cui c'è la peggiore crisi finanziaria che si sia mai vista, l'Italia che affronterà un periodo di recessione almeno fino alla fine del 2009. Quindi si presenta uno scenario veramente molto molto cupo. Tutto ciò in un contesto in cui in Italia abbiamo i giovani che nel migliore dei casi, se trovano lavoro, lo trovano come precari. Abbiamo l'istruzione che dovrebbe essere la base per tirar fuori dei giovani talenti, che mi riferisco soprattutto all'università, che è in condizioni pietose. E mi chiedo, ma dove vive il nostro Presidente del Consiglio? Cioè, veramente fuori... È una lodanda legittima, penso lui voglia aggiungere qualità e tempo soprattutto alla sua vita, come un po' tutti noi, però i suoi interrogativi sono chiaramente di una persona che è all'opposizione rispetto a questo governo. Li riportiamo e li registriamo come tutti gli altri. Alessandro, da Roma. Oh, buonasera. Senta, Telese, lei è un ragazzo, anzi un ex ragazzo, l'ho definita in anteprima, un ex ragazzo spiritoso, e avrà colto nelle due fotografie di Veltroni e di Berlusconi una chiara provocazione della Simona Ventura, che non è Emilio Fede, no? Allora, la Ventura mette in... Ventura, lei dice che la Ventura voleva fare un'ironia su Fede. Ma certo. Siamo ai metalinguaggi, perfetto, ho capito. Ma certo. Infatti lo dice anche la Deusanio in quel frammento. Oh, attenzione, la Deusanio è la stessa Deusanio che ebbe tra le mani da pannella non so quanti grammi di hashish in televisione, finendo tra l'altro anche implicata nella storia poi giudiziaria che ne venne fuori. Ma quello che voglio dire è questo, cioè la butad volontariamente escogitata dalla Ventura è diventata un'interrogazione parlamentare, ma via. Ma dico, la sinistra non sa ridere nemmeno un attimo di se stessa. Ecco, questo volevo dire. Al confronto Blob, che tutte le sere propone il Berlusconi così o il Berlusconi colì, di quello non se ne parla. Alessandro, ammesso che sia sicuramente intrigante la sua lettura, ha notato che le ultime tre telefonate su questo tema hanno dato tre risposte e tre modi di vedere la cosa assolutamente opposti, il suo e quello degli altri. Quindi che cos'è questo, un elemento di fiducia o di preoccupazione per il paese? Lo chiedo a lei, non c'è uno che l'abbia vista nello stesso modo. Beh, per Morri è stato un killeraggio di Veltroni, per un altro ascoltatore... Ma no, no, ma per carità, si figuri se la RAI, la TV pubblica, si mette a killerare, mi scusi il neologismo, il Beltroni. È chiaro invece che siamo di fronte a uno scherzo, ma la sinistra all'orticaria anche sui polpastrelli, non mi faccio dire di dove, della parte del corpo, e allora subito si incattivisce e fa l'interrogazione parlamentare. Va e credo bene. Che sia veramente ridicola. La sua opinione è chiarissima. A questo punto non sappiamo se uscirà un quarto punto di vista, mi pare statisticamente improbabile. Sabino da Padova, e poi voltiamo la pagina e introduciamo il prossimo ospite, che è uno scrittore che sta avendo un magistrato, ha scritto un libro e sta avendo un grandissimo successo. Alessandro, l'abbiamo salutato. Sabino da Padova. Sì, io non vorrei essere ripetitivo, vi ringrazio per avermi chiamato, ma sono dello stesso avviso del radioascoltatore che mi ha appena preceduto. In effetti noto anch'io che c'è un eccesso di permalosità nella sinistra e invece sa sorridere soltanto quando il presidente Berlusconi. Va benissimo che il Presidente del Consiglio è oggetto più facile di quelle che sono ironie, che sono satire, ma non ho tanto che qualcuno se la prenda anche per ridere con Vettron, non mi pare il caso di fare subito accenno a complotti, a chissà che cosa. E in effetti mi ricordo un po' il Forazzini classico, bravissimo artista, quando se la prendeva con Craxi e con la DC, ma poco poco attaccato da Lema con una vignetta, si è scomparso, insomma. La non famosa vignetta del bianchetto che costò una querela a Forattini, beh, lei, comunque il precedente storico è azzeccato. Va bene, allora ringraziamo e salutiamo anche lei. Abbiamo già il nostro ospite al telefono, facciamo in tempo, lo chiedo alla possente. Eccolo qui, pronto, buonasera. Buonasera. Scarpinato, come sta? Bene, grazie. Allora, lei ha fatto questo libro che, diciamolo, lei non era un bestsellerista, affrontava temi molto pesanti, la mafia, il potere. Questo libro è esploso, è in classifica, è entrato, uscito, è rientrato. Adesso addirittura, visto domenica, credo che fosse al sesto posto. Se lo aspettava un successo così per un libro che sicuramente affronta temi molto ostici per il grande pubblico? Guardi, non me l'aspettavo. Però io l'ho scritto in modo semplice, in modo che potesse... Ricordiamo il titolo e l'editore, lei ha scritto insieme a Saverio Lodato, edito da Chiare Lettere, Il ritorno del principe. Sì, l'ho scritto in maniera piana e chiara, in modo che potesse essere compreso da quante più persone possibile. Devo dire che per ora sto girando l'Italia a presentarlo e mi rendo conto che c'è una forte domanda che viene dal basso di serietà nel discorso pubblico, di approfondimento, che evidentemente non trova risposta nei media, nelle televisioni. La gente ha bisogno di capire, ha bisogno di andare al di là dei luoghi comuni che non spiegano più niente e fanno morire i discorsi in una morta agora. Questo libro è un libro eretico, un libro controcorrente, che nel momento in cui si dice che il centro della questione criminale sono gli immigrati, sono coloro che stanno nel disagio sociale, nella povertà, sono i marginali, dice che invece oggi come ieri in questo paese il fulcro della questione criminale resta la criminalità di settori importanti della classe dirigente che rendono povero questo paese, che lo condannano al declino, che lo condannano a una corruzione sistemica che dura dalla monarchia fino ad oggi, che lo condannano a una mafia che è irredimibile e che lo hanno condannato in passato a una violenza politica che si è espressa nello stragismo e nell'omicidio per fini politici. Oh, ecco, aspetti, la fermo un attimo perché noi abbiamo iniziato questa puntata con un frammento, un reperto di Andreotti dalla Perego, domenica, questo malore che ha avuto, questo personaggio è sempre immortale, alcuni ascoltatori ci hanno detto ma è ovunque, dovunque, lei nel libro su Andreotti dice cose durissime, addirittura scrive che avrebbe partecipato assieme a dei boss a riunioni preliminari all'omicidio Mattarella. Ma vede, la impostazione mi fa comprendere quanto ci fosse bisogno di questo libro, perché non sono io che le dico, è la Corte di Cassazione che le dice. Io ho citato testualmente un brano della sentenza, la Corte d'Appello, confermata alla Corte di Cassazione, dove risulta accertato storicamente che Andreotti partecipò a due riunioni con i capi della mafia in cui si discusse del comportamento della mafia doveva tenere nei confronti il Presidente della Regione Mattarella, che fu poi ucciso. Questo è sacramentato in sentenza, ma ancora oggi 9 italiani su 10, questo non lo sanno, ancora oggi 9 italiani su 10 sono convinti che la mafia è una storia di bassa macelleria criminale di cui sono protagonisti soltanto personaggi come Provenzano e Riina, che si esprime in italiano sgrammaticato. Ma se la mafia fosse questa, non crede che ce ne saremmo liberati da un secolo e mezzo? Certo, lei ha un'idea, una tesi molto forte, cioè che il potere abbia incrociato l'uso di tre diversi strumenti criminali, l'opera della mafia, lo strumento stragistico, la violenza organizzata, per alimentare, diciamo, la sua forza e la sua solidità. E l'ho riassunta molto malamente, ma è una tesi molto impegnativa. Ma guardi, più che una tesi mia, è una tesi di tanti studiosi, di tante persone che hanno studiato il caso italiano, ma è una tesi che viene rimosso continuamente sotto il tappeto. Il primo a dire che la mafia non era una questione di ordinaria criminalità, ma che era un'espressione delle classi dirigenti, fu Leopoldo Franchetti, che era un esponente della destra. Sì, lei parte dall'Unità d'Italia addirittura. Esatto, perché è un problema che viene lontano. Nel 1866 Franchetti, che era un esponente della destra liberale, un esponente della classe dirigente, quindi va in Sicilia e si rende conto che la mafia è un mix micidiale di cervello borghese e di lupa alla proletaria. Si rende conto che i principali capi della mafia sono quelli che lui definisce, apertura virgolette, i facino rossi della classe media. E da allora ad oggi, tranne la parentesi con Leonese, che è durata dall'inizio degli anni 80 all'inizio degli anni 90, tutti i più importanti capi della mafia sono stati colletti bianchi. Il capo della mafia di Corleone, prima di Riina e Provenzano, era il dottor Michele Navarro, medico chirurgo. Il capo della mafia di Palermo negli anni 80 era Michele Greco, un ricco proprietario terriero, ospite dei migliori sotti palermitani. Alcuni dei più importanti capi della mafia oggi sono medici, come il dottor Giuseppe Cuttadauro, medico chirurgo, capo della mafia di Brancaccio, condannato, l'avvocato Raffaele Bevilacqua, capo della mafia di Enna, condannato. Prima ancora che entri in TG, Facebook ci porta sulle ali del tantamo una notizia: la riunione dei piloti si è risolta con propositi di guerra, da domani si potrebbe arrivare a un blocco totale. Vediamo se ce ne diranno i TG. Abbiamo ancora al telefono Roberto Scarpinato, il procuratore aggiunto di Palermo, ma l'autore del Ritorno del Principe, edito Chiare Lettere, un libro che sicuramente ha tesi forti che fanno discutere. Lei ci sta dicendo delle stragi. Sì, guardi, nel libro... La potrei interrompere per i titoli del TG, non si preoccupi. Sì. Nel libro non si fa nessuna dietrologia, non si allude a nessun grande vecchio, a nessun grande manovratore, si raccontano decine e decine di storie concrete che sono state accertate giudiziariamente, da cui risulta che vi sono ampi settori della nostra classe dirigente che dall'Unità d'Italia ad oggi delinquono in modi diversi, delinquono con una corruzione sistemica, delinquono con la mafia, delinquono con lo stragismo e l'omicidio politico. L'Italia è da circa 20 anni ai primi posti della graduatoria dei paesi più corrotti del mondo. L'Italia ha metà del territorio che è occupato da mafie. Ecco, la fermo un attimo perché abbiamo il TG5 che Obama resta in vantaggio su McCain, si prevede un'affluenza record. All'Italia si incrina il fronte del no all'accordo, all'assemblea a Fiumicino i duri chiedono un nuovo negoziato solo con la CAI. Da Berlino scuse a Napolitano dopo l'attacco della Frankfurter Allgemeine Zeitung a un suo discorso sul nazifascismo. Frattini ha espresso il pensiero degli italiani. Avvertimento della camorra, orrissa tra bande dietro la sparatoria su 5 ragazzini nella sala giochi di Secondigliano. La gente minimizza, qui è la regola. La procura chiede il rinvio a giudizio di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. La madre della ragazza, è un momento difficile. Dalla protezione civile, nuovo allerta meteo, maltempo per domani, vento forte e nubifragi sul nord-ovest, in particolare sulla Liguria. Ecco. Allarme. Allora lasciamo le cose sul maltempo, torniamo a Scarpinato, sta facendo un discorso molto interessante, dice nessuna dietrologia. Nessuna dietrologia, mi limito a raccontare delle storie. È sfortunato, abbiamo anche il TG1. Sto Storiche elezioni per la Casa Bianca, affluenza record per decidere tra il democratico Obama e il repubblicano McCain. Non stop TG1 Rai 1. Europa a rischio recessione, Italia crescita zero, dice Bruxelles. Tremonti, l'Europa conferma la validità della finanziaria triennale. All'Italia, Fiumicino rovente assemblea di piloti e hostess, uno dei sindacati degli assistenti di volo, rompe sull'accordo. Università, al Politecnico di Milano proteste, il rettore, saremo costretti a chiudere. Prime denunce, ma anche cenni di dialogo. Secondigliano, forse una guerra tra baby gang ha scatenato l'agguato, un quartiere tra omertà e paura, ferma condanna di Napolitano. Torna a Montalbano e sbanca gli ascolti, ieri sera su Rai 1 il primo episodio. L'ultima interruzione per Spinato, un ascoltatore ci chiede di ripetere il titolo del suo libro, Il ritorno del principe, e però a questo punto le chiedo io di fare una piccola integrazione sulla sua tesi, perché oggi c'è questa notizia incredibile, gli echi di questa gambizzazione dei, dei ragazzini colpiti dalla camorra. La camorra è in questo disegno, lei lo vede come un altro potere criminale a sostegno del potere? Ma guardi, io penso che questi ragazzini ci dovremmo ricordare non solo quando vengono gambizzati, ma nella quotidianità, perché ci sono a Napoli, come ci sono a Palermo, come ci sono in Calabria, dei quartieri degradati, abbandonati a se stessi, come Secondigliano, come lo Zen, dove crescono ogni giorno migliaia e migliaia di ragazzi che non hanno punti di riferimento, abbandonati da Dio e dagli uomini. A Napoli ci sono 120.000 famiglie che hanno chiesto un sussidio della disoccupazione. Per tutta questa gente l'economia criminale è stata ed è un'economia della sopravvivenza. Non dobbiamo dimenticare che a Napoli, sino agli anni 60, il contrabbando del tabacco ha dato da mangiare a migliaia e migliaia di famiglie alle quali il nostro sistema sociale e politico non riusciva a trovare un lavoro dignitoso. E oggi dall'economia del contrabbando delle sigarette siamo passati all'economia degli stupefacenti, che è un'economia della sopravvivenza. Quando abbiamo un sistema politico e sociale che non è in grado di dare risposta al bisogno di lavoro e di dignità sociale di centinaia e centinaia di migliaia di ragazzi, di giovani, famiglie, la risposta è che queste persone vivono nelle favelas, come sono alcuni quartieri napoletani, dove si danno da fare e si trovano da campare con le più vere forme criminali. Allora, ce ne accorgiamo quando irrompono le nostre piazze, quando irrompono nei quartieri bene e cominciano a sparare, e quando si uccidono i ragazzi. Ma la realtà è che c'è un mondo che produce continuamente camorra e mafia, perché esiste un sistema sociale che non riesce assolutamente a risolvere i nodi di alcuni problemi, non li può risolvere perché dovrebbe rinnovarsi dalle fondamenta, e in questo rinnovarsi dal fondamento non è possibile. Quindi noi da un secolo e mezzo continuiamo a convivere con camorra, con mafia, con 'ndrangheta. Il problema è che più si aggrava la situazione economica, più queste forme criminali diventano forme alternative e aumentano la loro presa. Senta, allora l'ultima cosa, perché lei descrive uno scenario, prima di congedarla, uno scenario impietoso, ma lei è anche un rappresentante dello Stato, vive questa contraddizione, cioè c'è il rischio che sia anche un messaggio di sfiducia, oppure la sua destruence prelude o auspica una rinascita possibile? No, io non do nessun messaggio negativo, io dico che come magistrato faccio la mia parte, ma la mia è, come dire, una sorta di chirurgia demolitiva. Poi ci vuole la chirurgia ricostruttiva, che è compito di una buona politica, ma se mi guardo intorno io questa buona politica non la vedo. Se è vero che il Parlamento e i consigli regionali sono pieni di persone che sono state condannate per mafia o sono processate per mafia, allora io mi chiedo: ma che credibilità ha questo Stato che da una parte si presenta col volto di magistrati impegnati e dall'altra parte si presenta col volto di politici che sono stati condannati e sono sotto processo per mafia? Un messaggio contraddittorio che certamente indica una contraddizione interna del sistema, è il fatto che la mafia, la camorra non sono, come diceva Franchetti nel 1866, problemi di ordinaria criminalità, ma sono affari interni a una parte della classe dirigente nazionale. Quindi un problema macropolitico con il quale ci dobbiamo confrontare, che diventa problema macroeconomico. Grazie Scarpinato, spero che il successo del suo libro sia un segnale di risveglio di qualche coscienza. Sentiamo Padre Giulio da Roma e poi andiamo in pubblicità. Pronto Padre Giulio? Sì, un'osservazione. Premesso che ho appena terminato di leggere Il ritorno del principe, sarebbe davvero un pugno nello stomaco, quantomeno un invito al discernimento, a riflettere, perché non v'è dubbio che questi fenomeni malavitosi fanno davvero paura. Io credo che se non stiamo attenti di questo passo tra mafia, 'ndrangheta, camorra, Sacra Corona Unita e via discorrendo, tra poco dovremmo far ricorso alle forze di peacekeeping delle Nazioni Unite. E qui introduco il discorso, forze di peacekeeping anche per l'Italia. E qui introduco il discorso. Ho sentito i titoli dei nostri telegiornali e le notizie. Sì, li abbiamo fatti sentire. E ho visto che il Congo, la crisi nell'ex Zaire, è praticamente finita nel dimenticatoio. Adesso, per carità, Sky ne ha parlato, ma mi pare che per il resto ormai si è già sfumata questa notizia. E trovo questo davvero davvero preoccupante, perché ancora una volta è sintomatico di quel provincialismo cronico che ci caratterizza. Dico questo perché in fondo viviamo in un mondo villaggio globale, quindi se poi vi sono dei fenomeni migratori che ci interessano, certo, e via discorrendo, se non c'è comprensione rispetto a queste dinamiche, a questi fatti e accadimenti che si verificano nel sud del mondo, che vengono così solitamente stigmatizzati come violenze etniche, quando sappiamo bene che dietro vi sono interessi legati al controllo delle immense risorse minerarie di quelle terre, beh, io credo che questo modo di fare informazione sia necessario in Italia, e credo che come categoria, perché chi parla è anche giornalista e quindi suo collega, io credo che sia necessario andare un pochino al di là dei fatti di casa nostra. Mi pare che a volte il tipo di attenzione sia eccessivamente casareccio. Grazie. Bene, io la ringrazio molto, perché è una possibilità e ci dà di ricordare anche questa tragedia. È sicuramente vero quello che dice, forse dovremmo anche noi occuparcene. E per chiudere il cerchio, oggi sulla Stampa un'intervista di Giancarlo Caselli, procuratore capo di Torino: in Italia è impossibile processare la politica. Si sta facendo la storia in diretta, nel senso che siamo arrivati a un nuovo punto cruciale per la CAI. L'Italia è finita da poco, pochissimo tempo, l'assemblea drammatica di oggi dei piloti, si va verso uno sciopero, una serrata molto forte. Pier Giorgio da Roma, che penso che voglia parlare su questo. Sì, salve. Aspetti un attimo, 824 0024 per intervenire, 349 238 6666 per mandare degli SMS. Pier Giorgio, prego. Vado, allora, ma guarda, Luca, me colpisce una cosa, cioè lo scarso sostegno che c'è nel paese a questa operazione di salvataggio della CAI, e io la spiego in tre modi che sono impressionanti, anche che si ricollegano alle questioni che diceva il procuratore Scarpinati. Cioè, primo, che questa operazione la pagano i clienti di Alitalia, noi, perché ho visto i prezzi dei biglietti aerei da alcune province, da Verona verso Roma, eccetera, una serie di linee con dei prezzi allucinanti, vanno dai 250 fino ai 400 euro, delle cose che in una era di low cost sono assurde. Poi la pagheranno le università, eccetera, che non ricevono più fondi che sono stati dati all'Italia, ma soprattutto è la prospettiva. Cioè, se ci mettiamo in una logica di compagnia di bandiera, che è l'orgoglio nazionale, che non può fallire mai, è chiaro, sì, che questi possono fare sempre tutti i debiti che vogliono, tanto saremo noi a ripagare. Insomma, il paese credo, guardi, che condivido totalmente, sono cose che abbiamo anche detto, purtroppo è così, questa non è un'operazione brillante. Sentiamo Andrea Salerno e poi voltiamo ancora pagina e andiamo all'America. Andrea. Buonasera, salve, grazie per lo spazio. Allora, io volevo un attimo ricollegarmi al discorso dell'ascoltatore precedente sull'Italia. No, adesso la vicenda è giunta a questo punto abbastanza grottesco. Air France non andava bene, avrebbe pagato tutti i debiti e in realtà invece non l'hanno voluta. Ma mi ricollego anche giusto un attimo al discorso di questi politici che si offendono riguardo alla satira, ma si rende conto di che cosa stiamo parlando? Cioè, oggi l'argomento del giorno, perché il politico, Veltroni per esempio, anziché pensare al disastro elettorale che c'è stato, alla mancanza totale di idee rispetto a un paese, rispetto a dei problemi concreti, si offendono. Negli altri paesi praticamente i politici si fanno una risata sulla satira e il giorno dopo tornano alla Camera dei Lord a lavorare, a decidere che cosa deve succedere. Invece no, questo paese dice, invece i media danno questo grande, guardi, argomento. Lo hanno detto già molti, ci fa piacere che lo ribadisca anche lei, non si dovrebbero arrabbiare, siamo perfettamente d'accordo. Dovrebbero pensare a lavorare, auspicabile anche questo. 824 0024, Caldarola, al telefono Giuseppe Caldarola. Buonasera. È una manovra di avvicinamento, ora avremo dei collegamenti dei nostri corrispondenti dagli Stati Uniti, siamo alla vigilia di un voto storico e lei, che è un ex parlamentare del Partito Democratico, che è un ex direttore dell'Unità, ha spiazzato tutti dicendo che preferisce McCain a Obama. Ma che c'è? Vuole fare suscitare polemiche? No, assolutamente. Che io mi sono ricordato, quando è iniziata la campagna per le presidenziali, di ciò che abbiamo scritto noi di sinistra di McCain quando sembrava potesse essere il vice di Al Gore. Sì. Ne abbiamo elogiato la biografia, la statura politica, intellettuale e morale. E vabbè, ma Obama non le piace? Guardi, le dico la verità, Obama mi sembra un po' perfettino. Domani scrivo su Riformista che a me sembra finto Obama. Diciamo, va bene tutto e sembra un candidato molto adatto a piacere. Diciamo, e infatti il tema che stiamo affrontando è che piace a Frattini, piace a Bondi e piace anche all'onorevole Moroni, eletta nel Popolo di Libertà e proveniente da Forza Italia. L'abbiamo in linea e a questo punto vogliamo dire, vi siete messi d'accordo, visto Caldarola e Moroni, per scompigliare le carte? Perché lei invece preferisce Obama, pur essendo eletta nel centrodestra. Pronto? Eccoci. No, sembrerebbe. In realtà io penso che siccome sia io che l'amico Peppino che saluto fraternamente, siamo persone libere e quindi come tali diciamo quello che pensiamo e seguiamo le idee. Caldarola dice che Obama è troppo perfettino. E piace a tutti, mentre McCain è un vecchio veterano coraggioso torturato, insomma, in Vietnam. Nel PDL non piace proprio a tutti Obama, devo essere sincera. Io penso che comunque sia, io devo dire la verità, io sono sempre stata dalla parte dei riformisti, o almeno da quello che io ho individuato essere riformismo, e Obama mi sembra che dia una chance agli Stati Uniti di cambiare passo in questo momento di grave crisi economica, ma anche sociale e culturale degli Stati Uniti, in cui comunque è messa in discussione quella che è stata l'egemonia mondiale degli Stati Uniti. E credo che oltre agli aspetti di contenuto della proposta politica, che sono quelli su cui ovviamente io ritengo oggi i riformisti si debbano confrontare, c'è un altro aspetto non secondario che io, per carità, possiamo aprire la discussione sul fatto che sia un'operazione di marketing, però certamente Obama parla, suscita le emozioni e parla che anche la politica non suscita da molto tempo. Caldarola, insomma, io credo che la politica lo debba fare, questo, convinta di suscitare delle emozioni in questo gioco chiastico, uso un aggettivo complicato, cioè uno scambio, in questo strano scambio di ruoli, la Moroni eletta al centrodestra che tifa per Obama, lei con una storia di sinistra che tifa McCain, l'ha convinta la Moroni? Io dichiaro, sono molto amico, però non mi ha convinto, perché no. Mi emoziona di più un vecchio veterano del Vietnam che ha superato, che ha una biografia assolutamente limpida, tra l'altro una biografia di un uomo che è andato sempre controcorrente. Siccome penso che la responsabilità degli Stati Uniti da sempre, ma soprattutto in questo momento, sia molto grande, preferisco le mani, anche se le muove con difficoltà per via delle torture, le mani esperte di McCain rispetto alla biografia di uno sconosciuto. Prima godetevi questa meraviglia, è in inglese ma lo capisco anche io che non ho studiato a Cambridge, è lo scherzo che hanno fatto al vicepresidente designato Sarah Palin facendogli credere che c'è linea Sarkozy e lei è abboccata, come si dice a Oxford, con tutte le ciabatte. This is Bexy. Hello, Bexy. Hi. Hi, this is Franck Louvrier. I'm with President Sarkozy on the line for Governor Palin. Yes, one second, please. Can you hold on one second, please? Yeah, no problem. All right, thanks. E vedete, e qui le stanno chiedendo, dicendo che c'è in attesa. Okay, thank you very much. I'm going to put the President on the line. Okay, la fanno stare un po' sulle spine. This is Sarah. Governor Palin. Hello. Just hold on for President Sarkozy. Avete visto? Hello. Oh, okay. I always do that. Yes, hello, Governor Palin. E questo sarebbe Sarkozy. Yes, hello, Mrs. Governor. Hello, this is Sarah. How are you? Fine, and you? This is Nicolas Sarkozy speaking. How are you? Oh, so good. It's so good to hear you. Thank you for calling us. Oh, it's a grazie pleasure. Per avermi thank chiamato. You, we have such great respect for you, John McCain and I. We love you and thank you for spending a few minutes to talk to me. I followed your campaigns closely with my special American advisor, Johnny Hallyday, you know? E questa è fantastica. Ora good. Sfumiamo questo scherzo meraviglioso, ma Sarkozy avrebbe detto alla Palin che il suo speciale esperto per seguire il consigliere per seguire la sua campagna è il cantante Johnny Hallyday. Fantastico. Allora, Moroni, ha paura che le faccia uno scherzo così, che la chiami Sarkozy e non è lui? Diciamo che scherzo a parte è sempre in agguato, quindi devo dire io poi chiunque ci può cascare. Certo, però insomma un po' difficile che chiami me, insomma, quindi mio caso no. Ma questa Palin è stata una mossa azzeccata, l'ingresso di questa donna populista dirompente con un'immagine fortissima o no, secondo lei? A mio avviso no, nel senso che io credo che immagino che McCain abbia voluto giocare anche sull'aspetto di mettere una donna, quindi sull'aspetto di genere, però io credo sinceramente che su alcuni indecisi anche in campo repubblicano abbia avuto l'effetto opposto. Caldarola, visto che a questo punto non neghiamo nulla, la cosa buffa di questa campagna elettorale è di solito i vicepresidenti portano il cosiddetto valore aggiunto e adesso invece entrambi i vicepresidenti per motivi diversi, la Palin per le sue gaffe, la sua impreparazione e il vicepresidente designato di Obama per anche lui per le sue gaffe sono stati un po' accantonati. Sì, la Palin mi sembra un po' una forza della natura. Devo dire che lo Biden. Scherzo che hanno fatto alla Palin mi ricordo al contrario uno che temevo di aver subito io quando ero condirettore dell'Unità, perché chiamò Silvio Berlusconi. Io pensai che fosse uno scherzo, perché Piero Sanzanetti, attuale direttore di Liberazione, era molto abile nel camuffare le voci, e maltrattai questo signore pensando che fosse Sanzanetti, e poi mi dovetti profondere in scuse quando scoprì che era effettivamente Berlusconi. Per cui non so bene chi gli ha fatto Berlusconi. Che cosa gli ha risposto? A questo punto ci mimi il dialogo. Il dialogo Berlusconi che lei pensa. Perché lui mi disse sono Silvio Berlusconi. In verità è una telefonata carina, perché voleva ringraziare per l'atteggiamento che avevamo tenuto per la vicenda del fratello, all'arresto il fratello, e io ero anche l'autore dell'editoriale favorevole al fratello, e io pensavo che mi sfottesse, gli dissi, diciamo con un linguaggio che non ripeto, di non rompermi un po' le cose, tanto avevo capito che era un trucco e quindi che se ne andasse al diavolo. Lui, devo dire, con grande freddezza insistette nel qualificarsi. Dopo un po' vidi passare Sanzanetti nel corridoio. Non poteva essere lui. Questa è veramente meravigliosa. E Caldarola, la Moroni ha riscosso molto successo, invece lei molte battute cattive da parte degli ascoltatori di sinistra che dicono: Caldarola come può contestare Obama dicendogli che è troppo perfettino, ma che obiezioni sono? Caldarola piace McCain perché Obama è pessimista, ma da un giornalista ci si può aspettare un commento più corposo sul possibile presidente americano? Che cosa risponde? Insomma, le dicono di essere un po' facilone, via. Io non sono facilone, temo che i sostenitori di Obama siano faciloni, perché si affidano ad una coppia della nomenclatura. Obama è un prodotto tipico della nomenclatura, così come lo è il vicepresidente Biden. John McCain è uno stupendo politico americano che è andato sempre controcorrente anche rispetto al suo partito, pur non avendolo mai tradito. Quindi si tratta di un uomo di sostanza che ha criticato i repubblicani e il presidente Bush in tutte le circostanze fondamentali, quindi ha un pedigree di uomo libero, indipendente, che dovrebbe piacere alla gente di sinistra. Ma non sarà un po' vecchio? E che diavolo c'entra che si tratta di un uomo vecchio? Abbiamo un presidente del Consiglio di 72 anni, un presidente della Repubblica 83, e facciamo gli schizzinosi. Abbiamo il candidato dell'opposizione, Veltroni, che è 53enne, e facciamo gli schizzinosi per un signore settantenne che ha molto chiaro. La Moroni, se è ancora in linea prima di congedarla, volevo chiedere, ecco, questo paradosso, cioè si apre un'era nuova se vince Obama, come dicono tutti, strombazzando, oppure ci sarà una continuità di politica, come talvolta accade fra le amministrazioni americane, per esempio sul piano della politica estera? Lei che si augura? Ma no, io credo, e d'altronde come è giusto che sia dal mio punto di vista, che una forma di continuità anche sul piano della politica estera ci sarà, come del resto, come giustamente diceva lei, questo è tipico delle amministrazioni americane e del mondo anglosassone, che ha una cultura bipolare un po' più matura di quella che c'è in Italia. Credo che però ci sarà un grande rinnovamento, certamente non nelle scelte immediate, ma di impostazione politica, ma non solo, anche sociale e culturale, immagino che si rifletterà poi nel tempo anche nella politica estera, ma che partirà profondamente all'interno. Ma dove la passa lei la nottata? Io credo che la passerò all'ambasciata americana. E vai. E Caldarola? Casa. Abbiamo un'altra perla che vogliamo far sentire, e i nostri cuori, purtroppo dobbiamo dirlo, battono per Obama, perché una persona che c'è molto cara, praticamente un amico, Bruce, ha fatto qualcosa per lui. Questo. I want my dream back. I want my America back. Now is the time to stand with Barack Obama and Joe Biden. Roll up our sleeves and come on up for the rising. Vi abbiamo mandato un frammento live di Bruce Springsteen che ha fatto il suo endorsement per Obama, e abbiamo al telefono Christian Rocca. Ogni volta che arrivo alla corrispondenza di Christian mi si illumina il cuore, perché lui sa esattamente come stanno le cose. Allora, Christian. Buonasera intanto. Buonasera. Come stanno le cose? Beh, intanto non vorrei Diciamo che Christian Rock è un grandissimo appassionato di musica rock, pop, classica, new age, e non è che può restare indifferente. Come può McCain controbilanciare una discesa in campo così possente? Intanto la musica new age credo sia illegale a casa mia, quindi non credo che... Ma però è vero, Bruce Springsteen, ma ti vorrei ricordare che 4 anni fa fece lo stesso per Al Gore. Disse più o meno le stesse cose, fece lo stesso concerto, anzi ne fece forse qualcuno in più, insieme anche a Irem per John Kerry, ma finì male. Questa volta questa volta c'è anche Scarlett Johansson. Sì, ce ne sono moltissimi. Invece McCain ha solo Sylvester Stallone, insomma, quindi non è che è proprio messo. Però insomma, questa volta credo che Springsteen sarà contento del suo candidato. Io credo che non ci sarà nessun problema. Sentivo poco fa che i tuoi ospiti dicevano che passeranno la nottata all'ambasciata americana a Roma. Sarà una nottata credo breve, anche se ci saranno 6 ore di differenza col fuso orario americano. Io credo che già alle prime ore della sera qui di New York, intorno alle 8 di sera ora italiana, quando ci dai il risultato presidenziale? Ma allora, diciamo aritmeticamente e matematicamente bisogna aspettare che voti anche, che chiudano le urne anche in California, dove ci sono 55 grandi elettori, e quindi insomma matematicamente bisogna aspettare la mattina, però in California si sa già chi vince Obama. Cioè, bisogna guardare alcuni quali sono gli stati chiave da guardare. Sono tutti stati chiave sulla costa est, quindi qui intorno a New York, la Virginia, poi la Florida, l'Ohio e la Pennsylvania. Questi chiudono le urne alle 7 di sera di ora americana, o alle 8 di sera, cioè all'1 di notte o alle 2 di notte italiane. Allora, probabilmente non diranno subito l'esito di questi stati, perché comunque la percentuale sarà vicina in alcuni però stati. Alle 3-4 del mattino noi lo sapremo, insomma. Io credo che sì, soprattutto se si vede all'una di notte italiana, tra l'una e le due, danno un risultato favorevole a Obama in Virginia, in Florida, la partita è chiusa. Addirittura c'è anche un'ipotesi in cui si possa sapere prima, perché a mezzanotte italiana chiude l'Indiana. L'Indiana è uno stato conservatore. Certo, se andasse Obama non dovrebbe avere nessun problema. Se invece lì assegnano lo stato a Obama, cosa anche probabile, allora si capisce che sarà una nottata di molto favorevole a Obama. Rieccoci in studio, Luca Telese da una parte del microfono, dall'altra parte dell'oceano abbiamo niente meno che Christian Rocca, giornalista del Foglio, americanologo. E i vostri messaggi, alcuni sono furibondi per il mio schieramento nel partito di Bruce Springsteen, ma come si fa? Voi non avete mai sentito Nebraska registrato nel garage di casa col registratore a quattro piste? E sono emozioni indimenticabili. Allora, Christian, ci sei? Pronto? Eccomi. Ecco, sono qui. Ti volevo chiedere, ci hai dato come dire una specie di guida per i naviganti, quindi quattro stati da tenere d'occhio per capire come andrà il risultato. Quali sono stati veramente le ultimissime mosse? Tutti i TG dicono arrivano gli spot cattivi, ma questi spot cattivi che possono fare? Quanto spostano? Intanto io non ho visto nessuno spot cattivo, sono gli stessi dei giorni precedenti. C'è stato un caso in cui in Pennsylvania un spot radiofonico dei repubblicani riprende la questione dell'antico rapporto tra Barack Obama e il reverendo Jeremiah Wright, questo predicatore radicale estremista su cui McCain non ha mai voluto davvero insistere per evitare di essere accusato di razzismo, ma soltanto questo, non mi pare che ci sia davvero un cambiamento. In queste ultime ore i candidati sono impegnati negli ultimissimi comizi, ne fanno 3, 4, 5 al giorno e li fanno negli stati, la Florida, l'Ohio, la Virginia, quelli che appunto decideranno la partita. Un ascoltatore, Gabriele da Torino. Sì, pronto. Buonasera a tutti. Volevo fare una considerazione tra... Prego. Il discorso, diciamo, Obama-McCain. Allora, di questo parliamo. Per me è abbastanza ovvio che vinca Obama e con largo margine, ma questo nessuno l'ha mai posto come evidenza. E grazie a una politica scellerata di Bush, Junior. Allora, vediamo se è così. Giro la sua domanda a Rocca. Rocca, ma pesa molto l'eredità sicuramente non felicissima di Bush, dato il crollo finanziario, su McCain, o lui si è smarcato? Vedete, è un caso, io uso sempre il paragone d'Italia, simile a quello di Veltroni. Veltroni si è trovato con un'eredità difficile di Prodi, non si è smarcato e ne ha pagato prezzo. McCain cosa sta facendo? Beh, ovviamente sì, anche se è una cosa che capita, diciamo, in modo fisiologico alla fine del secondo mandato di ogni presidente. Bill Clinton, che ha lasciato gli Stati Uniti in buona salute, anche se poi in realtà in quel momento è cominciata la recessione, è stato, come dire, nascosto da Al Gore, suo vice, quando ha fatto la campagna nel 2000, sì, perché c'era la questione del sex gate di Monica Lewinsky, eccetera. Però sostanzialmente gli americani piace cambiare, piace dopo 8 anni girar pagina e pensare ad altro, e questo è stato anche uno dei motivi per cui Hillary Clinton è sembrata subito vecchia rispetto alla novità costituita da Barack Obama. Certo, su McCain c'è il peso di Bush, anche se McCain è il candidato repubblicano più lontano da Bush, anche proprio personalmente. Hanno avuto una lunga battaglia alle primarie del 2000, i due non certo. Si sopportano. Quando gli elettori democratici, nei luoghi in cui, nei stati in cui era possibile, andavano a votare per McCain contro Bush. Esatto. Sì, lui era l'idolo dei giornali liberal americani, perché appunto è stato a lungo l'idolo dei giornali liberal americani, per cui alla fine anche questa cosa di Obama, un po' anche scorretta, di definirlo come l'interprete di un terzo mandato di Bush, secondo me non ha fatto molta presa, perché appunto la gente sapeva, perché in questi 8 anni, in questi 10 anni, McCain è stato considerato come l'anti-Bush per eccellenza, anche se poi sulla guerra avevano la stessa posizione. La cosa che ha cambiato tutto è stata la crisi economica, che è stata addossata anche lì in modo un po' insomma, non proprio corretto sull'amministrazione, ma è normale. E quello però ha fatto presa. Allora, due telefonate ai lampo. E poi c'è... No, prego, prego, Cristian, finisci. No, volevo dire, c'è sempre, insomma, è una versione americana dell'antico adagio del piove governo ladro, no? Cioè, se succede qualcosa, certo, uno se la prende col governo. Allora, due telefonate, se sono rapidi, Luca da Milano. Pronto? Sì, buonasera, grazie dell'opportunità. Intanto saluto i suoi ospiti, degli ascoltatori. E io sono, come dire, un po' fuori tema al momento, perché volevo riallacciarmi alle battute della Littizzetto sulla monarchia. Beh, intanto comunque ci tengo a dire, stanotte io certamente dormirò, nel senso che non mi attrae più di tanto la votazione americana. A parte questo, no, anche perché domani, quindi stanotte può dormire tranquillo, Luca. Esatto, va bene, sì, è domani. Dicevo, mi voglio riallacciare alla battuta della Littizzetto sul ritorno alla monarchia. Cioè, la monarchia. Ecco, volevo dire che secondo me, più che come dire, una gag su Berlusconi, secondo me era un lancio per, come dire, un momento di rottura, un grido della Littizzetto per dirci: svegliamoci, facciamo qualcosa, pur di far qualcosa per cercare di cambiare il sistema che oramai è stagnante. Interpretazione accettabile. Sentiamo Carmelo da Messina e poi chiudiamo con Rocca. Pronto? Sì, pronto, buonasera Carmelo, sarò breve. Io le volevo dire che condivido quanto detto poc'anzi dal sostituto procuratore di Palermo, Scampinato, ecco, realtà difficile, così come Secondigliano, come Palermo, Catania, alcuni quartieri dove l'unico riferimento è la scuola. Non bisogna togliere il tempo pieno, meravigliarci che poi succedano quegli episodi, non va bene. Speriamo che non accada. Se accadrà, saremo qui a collegarci con gli asili per scongiurare, e con le scuole elementari per scongiurare che sia così. Rocca, torniamo di nuovo all'America. Stiamo chiudendo. Qual è il vero tema su cui si decide una rimonta di McCain o una vittoria di Obama? Qual è il tema decisivo? Guarda. L'altra volta fu il pronunciamento degli stati della Bibbia, il ritorno ai valori tradizionali. Che cosa bolle ora? Che senti nell'aria? No, guarda, secondo me è soltanto la questione economica. C'è molta insicurezza, incertezza per il futuro, la paura di perdere il posto di lavoro, di perdere l'assicurazione sanitaria con il posto di lavoro, di perdere la casa e così via. E così come nel 2004... quando si candidarono Bush e Kerry, l'America cercava sicurezza nazionale, quindi Bush era il candidato, diciamo, più adatto a garantirsi questa sicurezza nazionale. Questa volta cercano sicurezza sociale e ovviamente il candidato... Ultimissima domanda, che fine ha fatto il grande rompiscatole Michael Moore? Per fortuna di Obama non sta zitto. Battuta cattivissima. Per stasera abbiamo finito. Domani Giuseppe Cruciani, il zanzarista titolare, oltre a Cristian Rocca, ci racconteranno le ultimissime ore della campagna elettorale.